America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Washington, Mario Platero. My fellow Americans, this has been a difficult decade for our country. We've learned anew the profound cost of war, a cost that's been paid by the nearly 4,500 Americans who have given their lives in Iraq and the over 1,500 who have done so in Afghanistan. Men and women who will not live to enjoy the freedom that they defended. Thousands more have been wounded. Some have lost limbs on the battlefield. And others still battle the demons that have followed them home. Yet tonight, we take comfort in knowing that the tide of war is receding. Avete sentito il presidente americano, un annuncio importante, solenne, dalla Casa Bianca ieri notte, il primo ritiro dei militari americani dall'Afghanistan, la rivendicazione del successo della sua escalation, del surge che aveva annunciato nel dicembre del 2009 dall'Accademia Militare di West Point, e uno scaglionamento dei primi contingenti che torneranno a casa. Starting next month, we will be able to remove 10,000 of our troops from Afghanistan by the end of this year, and we will bring home a total of 33,000 troops by next summer. After this initial reduction, our troops will continue coming home at a steady pace as Afghan security forces move into the lead. Our mission will change from combat to support. By 2014, this process of transition will be complete. And the Afghan people will be responsible for their own security. Sono venuto a Washington proprio per seguire questo discorso. 10.000 uomini saranno ritirati entro la fine del 2011, entro la fine di quest'anno. I primi contingenti saranno rimpatriati già a luglio, fra poche settimane. Dopodiché ci sarà una offensiva che continuerà nel periodo in cui si può combattere in Afghanistan, e nel 2012, nel settembre del 2012, torneranno a casa altri 23.000 soldati, un totale dunque di 33.000 soldati americani che torneranno a casa. Questi 33.000, vorrei sottolinearlo, sono quei 33.000 soldati che Barack Obama inviò di sua iniziativa in Afghanistan, annunciando appunto il loro invio durante questo discorso che fece all'Accademia Militare di West Point. Con questo ritiro non è che gli americani abbandonano, tutt'altro, come ascolteremo da quel che dice adesso di nuovo il presidente, la svolta chiave c'è stata grazie allo smantellamento della rete terroristica di Al-Qaeda. When I announced this surge at West Point, we set clear objectives: to refocus on Al-Qaeda, to reverse the Taliban's momentum, and train Afghan security forces to defend their own country. I also made it clear that our commitment would not be open-ended, and that we would begin to draw down our forces this July. La combinazione di un forte aumento dell'impegno militare consente all'America, agli alleati, di poter condurre delle operazioni militari molto aggressive nella parte meridionale, nel sud dell'Afghanistan, praticamente quasi sotto il controllo dei talebani, e si è cercato così, con una forte offensiva militare, di recuperare il territorio che era caduto sotto il controllo degli avversari. Allo stesso tempo si sono cominciate a condurre delle missioni molto mirate con dei comando per catturare o uccidere alcuni dei più importanti leader dell'organizzazione terroristica. Il successo di Osama Bin Laden, che ovviamente Barack ha rivendicato, è stato soltanto l'uno di una serie di successi che i militari americani sono riusciti a conquistare contro terroristi individuali. Le conseguenze di questo che cosa sono state? Sono state molto chiare: smantellare di fatto, o comunque creare disruption, questo è il termine che ha usato Obama, quindi confusione nella rete terroristica, di chiudere molti dei centri di addestramento dei terroristi e di arrivare alla conclusione, grazie a un esame molto dettagliato di quelle che sono state le attività segrete di Al-Qaeda, che, pensate, negli ultimi 6 anni non c'è mai stato un attacco terroristico esterno internazionale in partenza dall'Afghanistan. E dunque si torna a quell'idea originaria secondo cui lo stesso Osama Bin Laden aveva deciso di, da una parte, difendere il territorio, di concentrare le sue attività militari in Afghanistan per far sì che i talebani potessero continuare a svolgere un ruolo importante, ma di distribuire all'estero in tante piccole cellule le istruzioni per poter poi condurre delle attività terroristica nel resto del mondo. E dunque il presidente Barack Obama ha detto che a questo punto ci si concentrerà per cercare di smantellare le possibilità di nuovi attacchi a livello internazionale, ci si concentrerà sullo Yemen, dove ci sono ancora dei rifugi importanti per i terroristi, sul Corno d'Africa, in regioni dell'Estremo Oriente e soprattutto sul Pakistan. Of course, our efforts must also address terrorist safe havens in Pakistan. No country is more endangered by the presence of violent extremists, which is why we will continue to press Pakistan to expand its participation in securing a more peaceful future for this war-torn region. We'll work with the Pakistani government to root out the cancer of violent extremism, and we will insist that it keeps its commitments. E Barack Obama ha parlato a lungo del Pakistan in questo suo discorso. Il Pakistan, ricordiamolo, è una grande potenza nucleare e un alleato chiave degli Stati Uniti, ma è anche un alleato ambiguo e popolato da estremisti islamici. Ha dato rifugio, che poi fosse un rifugio conscio o inconscio, questo per ora non lo sappiamo ufficialmente, ma certamente si dà per scontato che alcuni alti funzionari dei servizi segreti pakistani sapevano che Osama Bin Laden viveva tranquillamente in un paesino non troppo lontano dalla capitale. Dunque una grande ambiguità pakistana. Il percorso ha riconosciuto peraltro che in molte occasioni il Pakistan è stato utilissimo, aiutato, è stato determinato, tuttavia non fino in fondo. E dunque uno dei messaggi importanti che emerge da questo discorso guardando al futuro è che il Pakistan dovrà cercare di fare molto meglio di quello che ha fatto finora. Per il resto il quadro è un quadro di disimpegno. Non a caso i soldati torneranno a casa nel settembre del 2012 a cavallo delle elezioni presidenziali americane. 23.000 di loro torneranno proprio in quel periodo. Nel 2013 vi sarà un altro disimpegno fino al 2014, quando gran parte dei soldati americani dovrebbero essere rientrati tutti a casa. Una missione in fase di chiusura dunque, che viene annunciata non a caso in questo 2011, il decimo anniversario dell'attacco di Al Qaeda alle due torri gemelle e all'America. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter, 24 America, scriveteci su Facebook. Yeah. Ed eccoci alla canzone del giorno. Il rapper dell'Indiana, Freddie Gibbs, ha annunciato un ambizioso progetto: registrare un intero album in 24 ore. Il titolo, Lord Giveth, Lord Take the Way, sarà in vendita su iTunes da venerdì. Di Freddie Gibbs, Crushing Feeling. And I love the rap game. We love it, baby. I love to see niggas getting, you know, getting shit cracking. Getting shit popping. Trying to bring that money to the motherfucking G. Motherfuckers been doing this shit for years. Marshfield block, nigga. West side. Tarrytown. What up, B.S.? Shut up. We in this motherfucker. 2 hours got 68 in Bronx. All over that motherfucker, man. Ivanhoe, nigga. Damn that thing. Can't forget about the shadow, baby. Da Washington è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.